Per la sua esperienza, quanto ha dovuto lottare e quanto sta ancora lottando lei come responsabile di un settore giovanile per far passare questi concetti contro gli altri invece, che vorrebbero da noi soprattutto degli atleti muscolati e pazienza per la qualità dei piedi? Diverse situazioni mi hanno messo in difficoltà e in imbarazzo nel tempo, in tanti anni. Sono 40 anni che faccio questo tipo di lavoro, che non è poi un lavoro, è una filosofia, è l'espressione di una situazione che ho sempre pensato, e sono contentissimo che il Barcellona sia riuscito ad esprimere quello che io ho cercato di fare in minimi termini, naturalmente nei confronti del loro risultato, che però al quale ho sempre creduto, e naturalmente il tempo poi ha dato ragione anche a questo modo di vedere e di pensare, certo, le cose. Io ho avuto anche qualche importante direttore sportivo che mi ha detto: sì, vabbè, ma il tic tic toc, il possesso palla, invece il tic tic toc, eccolo qui dov'è il tic toc, è la base. È la base di chiaro che non è la sola cosa che serve per poter giocare a calcio, questo lo sappiamo tutti, però i fondamentali diventano una cosa importantissima e non assolutamente trascurabile.